Festival delle cucine popolari autogestite. 26, 27, 28 maggio, Forte Prenestino, 100 celle. No, il 26 e il 27 al Forte Prenestino, il 28 in piazza a Largo Agosta. Tavola! Ed ecco il menù della tre giorni, come antipasto antispecismo. Come primo, approvvigionamento di materie prime e filiera alimentare. Come secondo, organizzazione delle cucine tra sostenibilità e conflittualità politica. Come dolce, profitto e controllo. Dai, sciamani! No, 27 maggio al Forte, o diciamo Forte, diciamo al o diciamo senza al? Al. 26, 27 maggio al Forte Prenestino, 28 maggio all'Ardo Agosta. Shamanin!